si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua di nuovo insieme, vi stiamo facendo risentire le storie più belle che sono andate in onda durante l'anno a Si Può Fare. Questa è la programmazione estiva di Si Può Fare. Tra le tante storie di cronaca che vi abbiamo fatto sentire, questa che andrete a risentire tra poco è davvero straordinaria. Era aprile quando avevamo conosciuto il maestro Antonio Lacava, che se ne va in giro con il suo apecar trasformato da biblioteca, sì esattamente una biblioteca, un biblio moto carro, ma insomma la storia la risentiamo tra poco con le sue vive parole. Nel frattempo vi possiamo solo dire che ci sono degli aggiornamenti, perché lui è stato invitato al Salone del Libro di Torino, verrà coinvolto in dei progetti con la regione, tutte cose che poi sono arrivate dopo questa intervista che andiamo a risentire col maestro Lacava. Devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina, ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Io diventerò qualcuno senza studiare e senza leggere, e proprio per evitare che questo succeda, forse, e per creare invece dei lettori, dei piccoli lettori consapevoli, ma delle persone, delle future persone consapevoli, che il nostro caro amico ospite Antonio Lacava, maestro in pensione da anni, va in giro con una biblio motocarro, ed è una storia incredibile. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno a voi. Una storia che va avanti da anni, che recentemente non so chi ha un po' riportato alla luce, qualcuno. Alla ribalta. Alla ribalta. E poi funziona così, no, con i media, con la stampa. C'è un giornale, una televisione che si ricorda e che scopre qualcosa che magari c'è già da tempo, e così poi dopo parte il tam-tam mediatico. Ci accodiamo anche noi, perché la storia è veramente bella. Antonio va in giro da anni con una ape, un ape car, pieno di libri, una biblioteca, e va in giro nei paesini, nelle piazzette, ad attirare i ragazzi, i bambini, che magari non hanno, spesso in Basilicata, la possibilità, no, di avere tanti libri a disposizione, Antonio. Certo, in tanti paesini della nostra regione, piccoli e piccolissimi, al di sotto dei 1.000-2.000 abitanti, ovviamente le librerie sono scarse o non ci sono affatto. Poi le biblioteche, anche i servizi comunali sono un po'. Le biblioteche scolastiche, diciamo quelle comunali, hanno una loro funzionalità, ma sostanzialmente, praticamente, se in Italia si legge poco, in Basilicata si legge ancora meno, perché da noi il libro è stato visto sempre come lontano. A me ha colpito. Io mi sono mosso praticamente provando ad avvicinarlo. Praticamente il libro ai bambini, e quindi attraverso, creando una sorta di familiarità, di dimestichezza con il contatto, attraverso il contatto fisico proprio con il libro. Perché il maestro Antonio Lacava, io lo dico perché insomma alla radio le foto non si vedono, io davanti a me le foto insomma della sua ape, un'ape un po' ristrutturata. Io sono partito per la verità con un'ape 50, il cinquantino come viene chiamato. Quello con cui insomma andavano in giro gli artigiani o quelli che portavano il pane tanti anni fa. Sono partito così praticamente il 2000 con un'ape 50, e la scelta del motocarro secondo me è stata la salvezza, è stata perché io ho sempre portato con me questa sorta di intuizione che nasceva dalla consapevolezza di un impegno, l'impegno cioè a richiamare l'attenzione sulla sempre più crescente disaffezione, soprattutto delle nuove generazioni nei confronti del libro e della lettura. Questo che a me ha colpito, insomma, perché, perché sembra quasi, Antonio, sembra quasi che questa questione del leggere i libri, si legge di meno, in Italia poi si legge poco, in Basilicata forse ancora meno. Poi adesso ci sono nuove modalità, no, di apprendimento, di lettura, i libri elettronici, però sembra quasi invece che con i bambini le cose cambiano, perché i bambini sono attratti anche dai colori, dallo sfogliare le cose concrete, no? Chi ha avuto a che fare lo sa. Assolutamente sì, però dobbiamo partire da un dato. Io ho fatto il maestro, lei ha detto sono in pensione, effettivamente sono in pensione, ma ci tengo a precisare che questa idea voglio dire, con il mio essere in pensione c'entra poco. Lei lo ha ricordato che io praticamente da anni che porto avanti queste iniziative, e prima di arrivare al bibliomotocarro praticamente mi muovevo utilizzando una macchina furgonata di un mio cognato, quindi voglio dire questo. Ce l'ha provate di tutte, insomma, pur di andare avanti con questa cosa. Sì, perché secondo me il problema c'è, ed è il problema che nasce un po' a scuola, no? Nel senso che l'acquisizione dello strumento tecnico della lettura, voglio dire, non si coniuga con la voglia di leggere, con il piacere di leggere, che poi è la finalità ultima. E come si fa invece proprio a creare questo piacere? Insomma, lei ne avrà un'idea, perché sono anni che ci gira intorno, certo, a questa cosa. Come si fa? Sono partito, dicevo prima, provando ad avvicinare il libro, e intanto la scelta del motocarro è stata decisiva, determinante. Cioè, se io fossi andato in giro con un altro mezzo, sì, avrei comunque ottenuto un risultato. Perché, insomma, suscita curiosità, no? Perché sì, è tutto colorato, c'è la vetrina, si vedono i libri. Però il problema era portare un'idea semplice, praticamente una dimestichezza, una familiarità, una direi l'umiltà. Il motocarro, da noi, ma credo ovunque, è il simbolo di chi? Del fruttivendolo che viene a vendere le arance, la verdura. Cioè, quindi dice Antonio, insomma, anche a livello di immagine, serviva, no? Serviva un mezzo che fosse a dimensione dei bambini, che li mettesse a loro agio, rispetto. Vabbè, il motocarro è a mezzo a misura di bambini. Però in questa vicenda di Antonio Lacava, che da anni va in giro, in quanti paesini avrà toccato lei, Antonio? Tantissimi paesini, non ha tenuto il conto. Matera, della collina materana soprattutto, che ripeto sono piccoli, piccolissimi, ma anche della provincia di Potenza. E adesso, dopo questo impatto mediatico, saranno ancora di crescono più. Le richieste anche da... La chiamano, Antonio, venga qua, venga là. E sembra quasi anche di riscoprire, Antonio, ascolti un attimo, sembra quasi anche di riscoprire, perché lei ci deve un po' raccontare anche quello che vede attraverso questi viaggi che fa, perché sembra un'Italia dei cortili, delle piazze, dei paesi, un'Italia passata. No? Per noi che viviamo in città, per esempio, sembra lontano anni luce, ma va anche in città o va proprio... No, per la verità io sono molto affascinato da un'idea e da una curiosità. Vorrei vedere l'effetto che fa, per esempio, il bibliomotocarro nelle periferie romane, nei quartieri di Roma e, perché no, anche nel nord Italia. Ecco, sono molto affascinato. E perché, non provare? Si può fare... Cronache da un paese migliore. E vi ricordo i contatti di Si può fare Radio 24 su Facebook, Si può fare 24 su Twitter. Continuate a scriverci, a sollecitarci con le vostre belle notizie, con le vostre belle storie. Le manderemo in onda con le nuove puntate a partire da settembre. Adesso stiamo sentendo una puntata nella quale vi riproponiamo le migliori storie che sono andate in onda nelle scorse settimane. Sin qua abbiamo parlato di lavoro, adesso invece spezziamo, andiamo nell'Appennino Tosco-Emiliano e vi raccontiamo una bella storia, la storia di un paese che rinasce grazie ad una cooperativa, la cooperativa paese, nella quale ognuno dà una mano, ognuno fa qualcosa, e vedremo come sono riusciti a far rinascere Succiso. Sentiamo. Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment, no way, no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong. Just like the Phoenix, we're fucking royal again. La rinascita dell'Araba Fenice la dedichiamo a Succiso, in provincia di Reggio Emilia, il paese che rinasce, il paese riscoperto, tra l'altro, in questi giorni dai media, dalla RAI in particolare, che è andata, ha fatto un servizio, e allora ci dà così il destro, l'occasione per parlare di questo posto davvero particolare. Noi abbiamo convocato Dario Torri, presidente della cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso. Dario, buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Ecco, prima di tutto, insomma, una ventata così di novità, di rilancio del vostro vivere, potenza dei media, È una cosa, sì, direi un po' particolare, non ci siamo abituati. La RAI. Non pensavamo sicuramente di aver fatto una cosa così straordinaria. Noi sapevamo di aver fatto una cosa molto buona, interessante, interessantissima, ma

Esiste in Italia la Business Angel, anzi la Italian Business Angel Network, è un'associazione, la rete dei Business Angel. Di che cosa stiamo parlando lo capiremo tra un attimo. Poco tempo fa ha premiato il migliore angelo del business, vogliamo dirlo così, lo chiediamo a lui, Eugenio Venditti, buongiorno. Buongiorno. Come si dice in italiano? Non si dice, c'è traduzione. Investitori. Siamo già caduti subito perché uno angel già si illudeva di essere a un livello altissimo, invece parliamo di questo, cioè i business angel sono quelle persone che investono nelle nuove imprese, nelle start-up, nelle imprese giovani, portando capitale e competenza e quindi fanno proprio da angeli custodi, accompagnano. È una bella rete in Italia, importante. Intanto complimenti per aver ricevuto questo riconoscimento, signor Eugenio. Grazie. Sono stato ovviamente contento di questo riconoscimento, è stato significativo. Grazie. E in particolare per quale progetto è stato premiato? Per un progetto in cui sono entrato a novembre dello scorso anno. La società di cui adesso faccio parte è NTQ Data ed è una società che opera nel settore dei servizi per l'antiquariato. In particolare produce un database che è per design, modernariato ed antiquariato, sì. Da tutta una serie di dati che vengono intercettati dai risultati d'asta di tutto il mondo. Uh-huh. E che mette in condizione i collezionisti anzitutto, ma anche gli operatori del settore, di farsi una prima idea circa quello che è il valore di un oggetto che magari viene detenuto, oppure un oggetto a cui si è interessati, un oggetto d'arte a cui si è interessati e che si vuole acquistare sul mercato. Quindi essenzialmente attraverso un'analisi comparativa di oggetti simili che siano stati già battuti all'asta. Non a caso Eugenio Venditti ha investito e è stato premiato come Business Angel dell'anno in una iniziativa che nel mondo a livello globale non c'era. Cioè stiamo parlando di una piattaforma web nella quale io posso andare a ricercare. Io in casa ho una scultura del signor Mario Rossi e vado a vedere quanto può valere e grazie a tutti questi dati comparati mi faccio subito un'idea. Immagino già gli antiquari che si mettono le mani nei capelli perché gli porta via un po' di lavoro forse, però insomma d'altra parte l'evoluzione tecnologica comporta anche questo. Poi dopo se voglio andare a venderla devo comunque andare dall'antiquario, intanto mi faccio un'idea. Ho riassunto, ma insomma è questo il senso, no? Della, come ci sì, stava. Certo, come ecco. Diceva, diciamo di globale non c'è niente di simile, c'è qualche piattaforma che fa qualcosa di analogo però dedicata ad esempio al mercato americano o anche al mercato inglese o anche al mercato cinese, sebbene quello del mercato cinese non è una piattaforma, è veramente quasi un puro foglio Excel, ma non esiste una piattaforma globale che per il design, il modernariato e l'antiquariato come NTQ Data, database, come noi appunto proponga questo tipo di servizio, che poi è il principale, in effetti produciamo anche qualcos'altro, degli indici finanziari che nascono comunque dai dati che sono sì. inclusi nel nostro database e che in qualche modo analogamente con quelli che sono diciamo, gli indici dei mercati diciamo, borsistici più noti, danno la possibilità di aiutano a comprendere quelli che sono i trend possibili futuri del valore di determinate opere, oggetti d'arte. Cioè, mi sembra di capire che voi siete tra quelli fautori del fatto che con la cultura e con l'arte si mangia. E come? C'è stato un celebre ministro che disse no, con la cultura lasciamo perdere. E invece diciamo che certamente anche con la cultura intanto beh, direi che è un punto di passaggio importante, al di là del ci si mangia in modo così diciamo molto piatto, certamente aiuta, non c'è dubbio, perché dà corpo e contenuto a tutte le cose che facciamo. Quindi beh, lei ci ha investito insomma una cifra, ora non so se vuol dire quanto, non importa perché non è questo il contesto, non so se vuol dire Vabbè, 50.000 euro, beh, però insomma. In cambio anche di una proprietà. Ecco, appunto, perché poi come funziona? Società. Si entra, si dà una quota, si entra anche in una. Cioè, si fa un investimento, si ottiene una quota, si può ottenere anche un ruolo dentro la società, quello che è accaduto a lei. Come si diventa business angel? Perché anche questo è interessante. Come funziona questo mondo? Ma allora. Sicuramente è importante che ci siano delle esperienze pregresse che siano di tipo o manageriale o comunque imprenditoriale, e che quindi consentono, entrando in relazione con delle realtà nascenti, delle piccole aziende nascenti, di dare un contributo significativo affinché queste possano evolvere e crescere al meglio. Naturalmente, poiché si entra in delle start-up di cui si acquisisce entrando classicamente una parte, ci si investe anche un certo capitale che deve essere disponibile. Un altro punto che direi è importante, perché per quanto detto si tratta sostanzialmente di essere magari avere una storia manageriale e qualche decina di migliaia di euro da investire, in realtà persone con questi attributi ce ne possono essere tante, poi bisogna anche avere, direi, più una buona attitudine comunque al rischio. Eh certo, perché non è comunque un investimento, cioè non si sa come capita nelle imprese. Come sì. Capita nelle imprese, non si sa come va a finire, sennò sarebbe troppo facile. Certo. Intanto complimenti ancora a Eugenio Grazie. Venditti, Business Angel dell'anno. Ricordiamo anche il nome del sito, per chi si fosse incuriosito, ntq-data.com, ho detto bene? Benissimo. Per andare e fare, è già possibile farlo, no? Adesso una valutazione di quello che può essere una propria opera d'arte. Certo, si sottoscrive un abbonamento, ma c'è anche la possibilità di avere un periodo di prova gratuito per rendersi conto di qual è appunto il valore del servizio prima di decidere la sottoscrizione. You got me down on the floor. Da Parigi fino a Nardò, in provincia di Lecce, è la storia di Antonello Rizzello, che intanto salutiamo. Buongiorno. Salve, buongiorno. Imprenditore con le sue attività appunto a Parigi, non si è dimenticato però delle sue origini e dell'Italia e ha voluto fare un investimento per recuperare una parte di Nardò che da tempo non se la passava bene. No. E esattamente su che cosa lei ha investito per risanare questo pezzo di città? Allora, io ho investito circa 2 anni fa su un palazzo medievale del 1500 per realizzarne praticamente uno relè, quindi una struttura turistica e più poi con un ristorante, negozio, un po', creare un po' di attività economica all'interno del centro storico. Insomma, una storia che è finita sui giornali della cronaca locale perché tutti si sono domandati dopo quanto tempo che la situazione di questo palazzo medievale era bloccata? Ma penso da decine di anni. Cioè tutti vedevano questa cosa qua, che questo stato di abbandono che non si riusciva a risolvere eccetera, poi a un certo punto è arrivato l'imprenditore da Parigi, sembra un po', sì. No? Io mi sono innamorato probabilmente 2 anni fa, perché probabilmente è un portale che è un monumento ed era in vendita. Poi ho iniziato con l'acquisto di una parte del palazzo e poi ho dovuto fare altri atti notarili. Poi ho dovuto superare un sacco di difficoltà, no? Ho dovuto superare un sacco di difficoltà, perché almeno questo è quello che riporta la cronaca locale, una vicenda che era rimasta bloccata per decenni, non a caso, perché c'erano ricorsi, comune. Non sul palazzo, su un'altra struttura sempre medievale, molto, sì, molto bella, però che ha subito un crollo adiacente al mio palazzo, e quindi mi sono impegnato perché c'erano delle cause tra vicini, ex proprietari contro il comune, quindi ho comprato quell'immobile per ristrutturare e riaprire la strada e dare insomma un po' di dignità a quell'angolo che è stupendo. Cioè, io invito veramente tutti gli italiani, anche gli stranieri, magari investire a Nardò, perché è un gioiello. Quindi, insomma, lei per far partire questa sua attività ha dovuto investire anche più in grande, dovendosi far carico anche di una situazione che era rimasta irrisolta per anni in questa città, e questo, insomma, immagino che gli abitanti di Nardò saranno molto grato. Sì, ho avuto diverse lettere, cioè, questo mi fa molto piacere, che è stata apprezzata. Non pensavo, io sono una persona molto semplice, anche l'amministrazione, diciamo, locale, mi ha dato una mano nelle varie pratiche. Immagino che insomma, in tempi come questi, dove le amministrazioni locali hanno difficoltà, insomma, arrivare alla fine del mese, arriva un imprenditore che investe nella sua attività, ma anche sugli annessi e connessi, recuperando un pezzo di città, beh, credo che le avranno fatto i tappeti rossi. Insomma, sì, noi ci uniamo al coro di quelli che la ringraziano. Volevamo dare l'idea, la testimonianza di questa iniziativa a Nardò, in provincia di Lecce, quando insomma gli imprenditori hanno un ruolo sociale, come un tempo forse facevano e oggi forse fanno un po' di meno. Grazie ad Antonello Rizzello per essere stato con noi. Salve, grazie. Living in a Movie, vivere in un film, rivivrà in una fiction che sarà trasmessa dalla Rai in autunno la storia celebre, conosciuta forse da molti, magari non da tutti, della palestra Maddaloni di Scampia a Napoli. Sarà Beppe Fiorello ad impersonare chi? Il protagonista, che abbiamo il piacere di avere con noi, l'abbiamo convocato, Giovanni Maddaloni, per tutti il maestro Gianni. Buongiorno. Buongiorno e grazie per quello che fate per la mia gente, perché date voce a questo quartiere che si parla tanto negativamente, mentre le cose che si fanno sono bellissime. Noi non aspettavamo altro di fare questo collegamento, è già un po', sapevamo che c'era l'esclusiva della Rai, non se ne poteva parlare finché non fosse presentata, però quando era uscita la notizia c'era piaciuta, anche perché proprio in quei giorni si era parlato di un confronto tra una fiction che non si è andati a fare, quella su Gomorra, il libro di Saviano che parla della Scampia, dei problemi, delle difficoltà, della malavita, della criminalità, eccetera, e invece la fiction che poi si è andata a fare e che racconta un altro mondo, il mondo del riscatto, dello sport, è il vostro mondo. Io non so se vuol fare questo confronto o no. Sì, praticamente si parlava il film di Gomorra. Sì. Io credo che Saviano abbia fatto qualcosa di importante nella prima ondata, denunciando una serie di cose, però credo che adesso basta. Mettiamo fuori tutto ciò che è il bene di Scampia e di tutte le parti d'Italia che rassomigliano a Scampia, come lo Zen di Palermo, come le case di Roma, le case di Torino, i rioni ultrapopolari. Ci sono dei talenti, ci sono dei ragazzi che possono sognare e far sognare altri ragazzi dando dei modelli positivi, è chiaro questo? Sarebbe bello però, l'ha mai conosciuto Saviano? Vi siete mai visti? No? Perché lui tra l'altro gira sotto scorta. Sia, sì. Si è arrivato anche il momento che, se lui ha il piacere di incontrarci, di avere una visione, forse siamo in linea, ma dobbiamo parlare, dobbiamo capire ciò che lui cosa vuole dire, cosa vuole fare realmente del mio quartiere, del nostro quartiere. Non so se Saviano ha in mente qualcosa di cui fare del vostro quartiere, sicuramente lui ne ha parlato, ne ha scritto, e sicuramente sarebbe bello vedere due personaggi che così diversi, così anche con punti di vista e anche obiettivi diversi, perché non può che essere così. Lei lavora nello sport, in una palestra importante, avete raggiunto risultati importanti, Saviano scrive, però sarebbe bello immaginare questo incontro. Chissà, magari ci si può lavorare. Intanto però godiamoci l'idea di questa fiction. Beppe Fiorello, che è strepitoso, già ha fatto altre fiction importanti sul Torino, su Modugno. Avrete lavorato anche fianco a fianco. Com'è stato vedere la vostra vita rinascere nel film? Io credo che Peppe, io devo solo ringraziare nella persona di Peppe, la Psicomedia, la produzione, il regista Marco Pontecorvo, che è un uomo fantastico, ci ha messo l'anima, si sono ammazzati per mettere su queste sceneggiature. Io sono stato vicino a Peppe e ho notato che la sua grande umanità possa rispecchiare molto bene ciò che facciamo su questo territorio, e credo che tutte le cose che tocca Peppe sanno di umanità, sanno di una vera italianità, una vera napoletanità. C'è l'uomo del sud, l'uomo che dà tanto e chiede poco. Quindi Peppe è la persona che realmente farà sognare tante persone, facendo capire la vera storia dei Maddaloni su questo territorio. Mm. Io già l'altra volta, quando avevamo accennato a un'altra storia, sempre relativamente a voi, ve l'avevo chiesto qual è il vostro segreto, no? Perché chi ascolta sicuramente sarà incuriosito anche da questo. Come fate, è una dinastia quasi la vostra, e ricordiamo suo figlio Pino, medaglia d'oro nel 2000 di judo, tanti altri atleti della famiglia e non sono passati di là. Vi sentite speciali? Ma no, credo che per noi questa è la normalità, per tante persone questa è speciale, però per chi è vissuto, ha sostenuto un vissuto su questo quartiere, e quindi chi ha un vissuto sociale, fare del sociale è una cosa normale. Io e Pino siamo una medaglia con due facce diverse. Lui oggi è tecnico della nazionale e pensa a Rio poi a portare quanto più italiani a fare più medaglie. Io resto sul mio territorio a non solo a preparare ragazze, perché non dimentichiamo, come lei prima citava, siamo stati a Sydney, siamo stati a Pechino, poi siamo stati a Londra con tre ragazzi che sono passati da noi, Faraldo, Ciano, Verde, Elio, e poi andremo a Ria sicuramente con Marco Maddaloni, con Di Guida, con Darco ed altri ragazzi, Ciano lo stesso che si ripropone di nuovo anche per questi prossimi Olimpiadi. Però la cosa importante è non lasciare mai le origini, non tradire mai la propria gente, e questo Pino non lo può fare in questo momento perché fa il tecnico della nazionale. Sono io che resto sul territorio dando ai ragazzi delle speranze. Abbiamo delle storie bellissime, abbiamo un ragazzo che oggi suona il piano senza averlo mai studiato a 12 anni, è un ragazzo che è a forte, diciamo, è un ragazzo a rischio e sicuramente se ne sentirà parlare in futuro, e abbiamo anche un ragazzo non vedente che ha vinto gli assoluti e sogna di arrivare alle Paralimpiadi di Rio. Quindi potete capire quali sono le nostre intenzioni sul quartiere: aiutare la gente, aiutare le fasce deboli e accontentare e far sognare i ragazzi. Partendo proprio da questo, no? Sarà forse banale chiederlo, ma c'è più soddisfazione a raggiungere una medaglia, a raggiungere un traguardo sportivo di altissimi livelli come siete abituati a fare voi, o a vedere anche l'ultimo dei ragazzini salire sulla vostra sul tappeto e intraprendere un cammino che, oltre ad essere sportivo, è però anche un cammino suo personale di uscita da situazioni complesse come sono quelle del quartiere che vi ospita? Bella la domanda, e la risposta deve essere altrettanto, perché quando un ragazzo che praticamente il papà è detenuto, e quindi il papà che ti chiede aiuto, il bambino praticamente cambierà il suo futuro, il suo programma attraverso lo sport, è come vincere un'altra medaglia alle Olimpiadi. Togliere i ragazzi dalla strada, dalle maglie della criminalità, è come vincere una medaglia ogni giorno. E devo dire la verità, questa è una cosa che mi gratifica molto, è un'altra battuta molto bella, una cosa da dire, e la gente deve sentire che oggi le istituzioni veramente sono in crisi, sicuramente ci sono pochi soldi, ma oggi come oggi il papà di Antonio, che è detenuto in Sardegna, vogliono fare una colletta per darmi dei soldi. Questa è una cosa bellissima, c'è una cosa che dei detenuti, con un momento di riflessione, vedendo tutto ciò che noi facciamo per i propri figli, fare una colletta per aiutare questa palestra del loro quartiere, questa è una notizia che bisogna dare in pasto alla gente, certo. Perché tutti possiamo sbagliare e tutti possiamo ritornare sulla giusta strada, anche i genitori di Antonio. E però, l'avevamo detto anche l'altra volta, allora possiamo dirlo, possiamo anche riparlarne, no? Perché avevate attraversato un momento di difficoltà, c'era stato chi si era fatto avanti per, credo se non ricordo male, saldare un conto di una bolletta Giovanni Malagò. Giovanni Malagò si è fatto avanti, ha dato un suo stipendio pari a migliaia d'euro, di cui abbiamo sostenuto un paio di mesi. Però questo è un centro sociale sportivo collettivo formato da quasi 1200 persone, più della metà non pagano la quota di 20 euro, non pagano niente, perché diversamente gli abili non possono pagare, i ragazzi dell'area penale non pagano, marito e moglie pagano 20 euro e 20 euro e gli altri 4-5 figli non pagano. Questo è un centro che fa un grosso lavoro di alto spessore sociale. Insomma, avete sentito il carisma, l'energia di Gianni Maddaloni, noi vorremmo averlo in tutte le puntate, uno così è un testimonial perfetto di Si può fare. Questa era una delle storie che vi abbiamo riproposto per il meglio di Si può fare, che va in onda ogni sabato a mezzogiorno su Radio 24. Vi ricordo i contatti, scriveteci, Si può fare /Radio 24 su Facebook, Si può fare 24 su Twitter, io sono @ Ale Maurizi, sempre su Twitter. Ringrazio per la puntata di oggi, anche questa volta, Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana, Valeria Bernardi in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre a mezzogiorno con Si può fare.